facciamo il suo caffè. Amore. Pietro, è uscito, vieni! Ma che vieni? Puoi darmi il lungo canarotto! Benvenuti anche oggi a questa nuova puntata. Purtroppo abbiamo dimenticato per l'ennesima volta di registrare fin dall'inizio, quindi ci siamo persi qualche minutino per strada. Niente, buon ascolto della terza puntata di Piano Rottolo Caffè. Vi ricordo la terza puntata di Piano Rottolo Caffè. Siamo felici, ci stiamo divertendo, già la terza puntata, quindi abbiamo sempre ospiti. Oggi ci sarà un ospite. L'ospite international. Allora, prima devo cercare prima una certa cosa. Che poi non vi dico, poi ve lo presento, il nostro ospite. Che praticamente con lui tratteremo l'argomento della marijuana terapeutica. Che poi, guardate ragazzi, finalmente il nostro caro Pietro si è deciso a inserirsi nel sito. Ed adesso è diventato un nostro autore e ha fatto il suo primo meraviglioso articolo. Aspetta, ho piazzato da morire, ma sono riuscito a farlo. Oh, l'importante è fare le cose, non è che... Ok, allora, su che cosa l'hai fatto, Pietro? Sulla marijuana terapeutica. Che cos'è? No, vabbè, questo ne vorrei parlare dopo con Manfredi. No, intanto cominciamo a parlarne e mettiamo poi la nostra prima canzone. Praticamente niente. Se no poi stiamo 50 ore sempre bravissimo. A parlare come l'altra volta. Allora, niente, io praticamente ho visto su Facebook una piccola cosa postata dove c'era scritto tabacco, 50, com'era? 5.000 morti, 50.000 morti ogni anno. Marijuana, zero morti ogni anno. Uh-huh. Praticamente niente. E quindi tu da questo hai detto, la marijuana allora fa bene, dice. La marijuana fa bene, fa molto bene. Però ti posso fare un piccolo appunto, scusami, ma tu la marijuana, se dovessi fumare, non la dice... cannabis, non parliamo di marijuana, parliamo del cannabidiolo. Mm. Tu per usare la cannabis, cosa usi? In che senso? La cannabis ci puoi fare anche con il cannabidiolo, ci puoi fare anche dei biscotti. Non per forza si deve fumare. Io sto parlando della marijuana terapeutica, non puntualizziamo la cosa sulle canne. Quindi la marijuana terapeutica non si fuma? Questo vuoi dire? No, si potrebbe anche fumare. Si può anche fumare. E come si preferenza. Fuma? Con una bella cannona. E come si fa la cannona? Con la marijuana. Ah. E con... Cosa ci metti insieme alla marijuana? No, non è vero, non per forza ci mette del tabacco, la marijuana quella pura... Vabbè, qui ci vuole Manfredi che mi aiuta, perché ora, tabacco aspetta, e marijuana, ho trovato tu aggiungi marijuana e tabacco, fa schifo, perché se tu devi farti solamente una canna di quella pura e buona, ti fai una bellissima canna di marijuana, pura. Ti fai che comunque, cosa? Comunque, io sto parlando della canna... Cosa ti fai là? Ah, la Maria. La Maria? La Maria. E partiamo con gli articoli 31 e Maria, dai, che facciamoci una Maria, dai. Poi ne parliamo meglio con il nostro Manfredi Corradino, lo possiamo dire. Oh, già. Cos'è questa? È la Maria. Ah, va? Senti. Cantautore, caro ascoltatore, la canto con calore struggente, un mix tra pagine cocciante e cosciente. Le serenate ne han già scritte tante in tanti, con sentimenti e intenti differenti, con pianti, lamenti e accordi sfuggenti. Ricordi, ne hanno scritta una per Francesca che non si trovava, per Giulia che era brava, per Silvia che ignorava, anche Luca si bucava, per Anna che sapeva fare all'amore, per Gianna, Gianna, Gianna che aveva un coccodrillo ed un dottore. A Marinella volata su una stella lassù, e che i due pali ci aveva fatto Lisa dagli occhi blu. Così dopo signora lì e passerotto non andare via, con la mia dedicata alla Maria. Ricordo quando l'ho incontrata al parco 7 anni or sono, vestita in verde con quel suo profumo buono. Stava con un mio amico che mi ha chiesto me la tieni, devo andare all'aeroporto e lei non va d'accordo tanto con i cani. Non ci sono problemi, fidati di me, che intanto che tu vai facendo il chiacchiere. E anche da quei tempi ero poco più di un bebè, sono corso a casa mia con la Maria a farmi un tè. Caruso, schiarisco la voce e intono un canto. Giovanna di secondo nome, l'ho rivista l'altra estate presso la stazione, e con lei mi sono fatto la stagione. E più che un cuore di panna era un cuore di canna, ma già sapevo che sarebbe finita presto. Non la farò passare in dogana e per Maria restare un rischio. È ricercata dai pulotti e dai caramba, ha pure dei casini con la guardia di finanza. Ma comunque sì, ho visto che qualche agente di polizia si fa le sue serate in compagnia di Maria. Una condanna della mia vita è il dramma, perché non potrà essere io Maria Giovanna una capanna. Mi è rimasta solo una canna nel mio corazon, le vacanze le farò in Giamaica dalla mia Maria bella. Aspetto intanto, voto pannella e canto. Maria, yeah. Oh Maria, ti voglio, una canzone d'amore mi viene da cuore. E no, prima di andare via volevo dire ancora un'altra cosa. No, me ne dovevo dire una cosa a tutto lo stivale, a tutta Italia. Volevo dire legalizza. Oh, un attimo. Legalizza. E rieccoci in onda. Volevo presentarvi il nostro ospite speciale direttamente dalla California, da San Francisco, e non ho sbagliato, il nostro Manfredi Corradino. Aspetta, facciamo come al come da Porta a Porta. Dillo. Vai Manfredi, saluta. Manfredi? Partito? Manfredi? Ti sei perso Manfredi? Ragazzi, si è perso Manfredi! Dico, è ore di sentirci, ora è da tre ore che siamo online, che siamo connessi con il ma nostro... Ma perché non c'è più? Manfredi? Sì, l'ho sentito. Manfredi, devi parlare, semplicemente. Manfredino? Niente, è morto. È morto Manfredino. Allora, parlavamo intanto della... Io intanto lo richiamo. Esatto, cerca di ricontattarlo. Il nostro Pietro l'altro giorno, quindi vi dicevamo, ha fatto il suo primo articolo, che poi potete trovare su www.vapensiero.it, su Pensandoci Su, che è una sorta di luogo, dove, di rubrica, dove cerchiamo di affrontare delle tematiche. Lui ha fatto il suo bravo articolo, l'ha copiato un po' di qua e di là, ha cercato informazioni giuste, così che si fa. E ha cercato delle informazioni varie sulle varie effetti della cannabis, però se poi voi andate a vedere anche su Wikipedia gli effetti della cannabis, troviamo che la Commissione Unita nel 2001 dice: troppe volte sono stati dati giudizi e prese di posizioni politico-legali senza valide accertate basi scientifiche, usando anche giudizi e prese di posizioni politico-legali senza valide accertate basi scientifiche. Cacchio, no, no! Oggi un po' di problemucci, No, è perché sono entrato nella pagina e quindi è partita subito la radio. E praticamente il nostro caro Pietro si è scontrato anche con... con questo, eccolo! Allora, sei in onda, puoi presentarti. Okay. Comunque, aspetta un attimo, che stavo finendo di dire questa cosa. Farlo finire, che spesso e volentieri, quindi, da questa commissione unita, che era fatta dai ministeri della sanità di Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi e Svizzera. E dice appunto nel loro lavoro di introduzione, dice: sono stati dati troppi giudizi e prese di posizioni politico-legali senza poi che ci siano delle valide basi scientifiche, utilizzando anche degli studi parziali inesatti o addirittura completamente errati. Ma su quale punto di vista? Dal punto di vista scientifico e medico? Nel senso che fino ad ora la commissione del 2001, questa introduzione del 2001, fino a quel momento sono state date dei giudizi che appunto sono presi un po' a muzzo, cioè nel senso ognuno si inventava sulla base di quella che era l'ideologia quindi se io sono una persona che è d'accordo, che è contro il proibizionismo tra virgolette, e quindi voglio la liberalizzazione delle droghe leggere, allora mette tutti studi anche errati che dicono la cannabinoidi e tutte queste droghe leggere. Ma sono scientificamente provati, però. E qua ti sta dicendo, non me lo sto inventando io, che fino a quel momento dice: no, fanno male. Dall'altro lato, se tu invece sei di posizione contro le droghe leggere, nascondi tutti i lavori che dicono che la cannabis e tutte le altre cose fanno bene, e quindi dice: no, si utilizzano altri dati che alle volte sono pure errati, inesatti. Però io qua vorrei farti una domanda a te, che comunque sei contro le droghe leggere, sbaglio. Mm-hmm. Ora, perché voi che siete contro le droghe leggere, perché non proibite l'alcol? L'alcol è una droga leggera, aspetta, secondo il mio modesto parere, l'alcol è molto più deleterio della marijuana, in questo caso. Per un motivo semplice, trattato. Perché l'alcol di per sé non dà subito gli effetti dello sballo. Io mi ricordo che quando andavo alle superiori, siamo fatti una gita a Reggio Calabria, e bevevamo, sì, eravamo in gita scolastica, vedi il macello che c'è. Però la differenza fra me e alcuni miei compagni era che io bevevo perché mi piaceva l'alcol, cioè prendi un whisky bello, ti riempie la bocca, cioè ti senti bello, ti riscalda tutto, cioè ha quel sapore amaro, è fantastico. Altri invece andavano direttamente sugli alcol pesanti, qualcosa che era troppo, che era molto forte, ma non perché piaceva quel tipo di liquore, perché voleva sballare il prima possibile. Abbiamo la americanina. Comunque, ora sotto questo punto io vorrei, dato che lo stiamo un po' trascurando, Manfredi. Ehi là. Dai, saluta. Buongiorno a tutti. non so se poco fa avevate sentito, era caduta la connessione Skype, no, comunque Pietro mi ha fatto alzare alle 7 di mattina. Ah, ricordiamo che a San Francisco sono le 7 di mattina, è lui, no, il nostro... Sono le 8 meno 10. 8 meno 10, il nostro caro Manfredi si è svegliato alle 8, alle 7, perché già è da più di mezz'oretta che è con noi. Soltanto per noi. Soltanto per noi. E anche perché deve fare un tema solamente di 800 pagine in inglese, non so come farà, ma comunque... Esatto. Vabbè, stando in America è un po' normale che ti dicano dei temi in inglese. Non penso che te li facciano fare in italiano. Sarebbe un po' strano. Comunque, che ne pensi tu di questa cosa? Parlaci un po', dato che in California... Potrebbe esserci anche la persona che gli piace gustarsi la cannabis. Cioè, non, come gli piace, come una persona può piacere gustarsi un whisky, può essere che qualcuno può piacere gustarsi farsi una canna, quello che è. Anche okay. Se, vabbè, sappiamo tutti che il 90% delle persone lo fanno almeno per, appunto, per sballarsi. Come i ragazzi con l'alcol, comunque, alla fine. Non penso che ci sia un ragazzo che veramente riesce a gustarsi un... Parlaci... No, dai, se tu ti prendi un bicchiere di vino, per quanto poi alla fine sballi, però alla fine, o ti prendi una birra, è perché ti piace la birra, non perché ti devi sballare. Almeno io... Ma la stessa cosa vale per come ha detto lui. Nelle mie cerchie funziona così, poi non lo so. Sì, però dico, la stessa cosa vale con la cannabis, come sta dicendo, con la marijuana. C'è chi gusta e chi può piacere farsi una canna di marijuana, che fa... non fa male, forse meno, di un bicchiere di birra o di un bicchiere di alcol, sì, o di un bicchiere di whisky. L'alcol fa male soltanto se ne abusi. Stessa cosa della cannabis, fa male solamente se... Ragazzi, qualsiasi cosa fa male se ne abusi. Ecco, perfetto, esatto. Ecco. Quindi, comunque, io volevo sapere una cosa, lì in California, la situazione con la marijuana terapeutica, com'è? Spiegacci un po' che tu... Allora, io ho un amico che, diciamo, fumo abbastanza regolarmente e mi ha spiegato come funziona. Qua ci sono delle farmacie che te lo distribuiscono per motivi terapeutici, quindi devi avere una specie di prescrizione per entrare in queste... Sono farmacie adibite in pratica solamente per la vendita di prodotti, penso, a base di cannabis, eccetera. Cannabidiolo. Quindi te lo vendono in pratica con il consenso dello Stato. Il fatto è che la cosa curiosa è che qua in America, per la legge federale, quindi di tutti gli stati, è illegale. Cioè, le droghe leggere vengono equiparate, mi sembra, a quelle pesanti, mentre per lo stato della California, che è singolo, viene considerata legale. Quindi, paradossalmente, a quanto ho capito, un agente dell'FBI, che è federale, ti potrebbe arrestare. Il di San Francisco non può, capito? Perfetto. Perché sei nello stato della California, in cui tu legalmente puoi fumare se hai una prescrizione. Vabbè, ma lì in America... Ma sei sempre negli però Stati sempre, Uniti. Sì, esatto, sempre sotto lo stato federale, quindi è strano. Però lì in America è un po' tutto strano, anche con il fatto delle armi. Dico, gli americani sono molto strani, sono molto, molto strani. Ma penso che è uno stato così grande da controllare che gli viene proprio difficile farlo, perché sono quanti sono gli stati? 50 milioni. Sì, va... Ci sono stati con pene dove c'è la pena di morte, cioè, stati dove le armi sono legali. Cioè, tu sei stati lì a chiedere dove... a noi quanti sono gli stati, complimenti. Dico, tu stai lì e chiedi a noi quanti sono gli stati degli Stati Uniti. Vabbè, vai avanti, fregatene. E niente, quindi è un po' strano per questo discorso qua. Poi per il resto non lo so. Io ho visto vi dico che girando a San Francisco di queste farmacie qua, che comunque non vogliono dare troppo nell'occhio. Che non si sa mai passa un federale. Come? Non si sa mai passa un federale. Esatto. Ora comunque vorrei fare un pochino uno stacco con una bellissima canzone, veramente veramente bella. È praticamente Stolen Dance, se vi ricordate, di Milky Shake, però questa è un'altra che è sempre sua. Sad Necessary, veramente bella. La necessità del sadismo, del dolore, cos'è? È per voi, dai, Milky Shake. Vediamo cosa ci dice qua il nostro Pietro. thinking, I blame you for this and our breakers came around. You shot my heart like a bullet all alone. When you leave me, just carry me slow home. Mirror, mirror, can I blame you for this and our breakers came around. Sadness is serving, is what you promised me. All I can do is to follow the tears. Deep down in your love is what you promised me. All I can do is to follow. Sadness is serving, is what you promised me. All I can do is to follow the tears. Deep down in your love is what you promised me. All I can do is to follow. E siamo in onda. Allora, ed eccoci. Allora, stavamo dicendo, quanti sono gli stati degli Stati Uniti in America? Sono 50 più un distretto federale. Bravo! Bellissimo! Ed eccolo il nostro americanotto, il nostro palermitano americanotto. Allora, vorrei presentare direttamente, dato che prima abbiamo parlato molto, una new entry nel mondo della musica, una new entry che si chiama Noelia Giorgianni. Ci ha postato questo, ho postato il suo video con la sua musica performance su Pianerottolo Caffè, sul gruppo. Ora la rimandiamo adesso. Lei si chiama Noelia, Giorgianni, ma è un'amica. In the arm of an angel, nelle braccia di un angelo. Sorry. Secondi, 4 secondi. Rieccoci. Manfro. Ehi. Ci sei? Ci siamo. Siamo in onda. Siamo on air. Per aria. Quindi stavamo parlando, giustamente come diceva Manfredi, come uno può avere il piacere di sorseggiare un whisky, uno può avere il piacere di sbamparsi una canna. O per meglio dire di io farsi due tiri di canna. Non avendola provata, però da quello che mi dicono i miei amici, la canna poi di fatto non è che ci abbia un vero e proprio suo sapore o un qualcosa che tu ti gusti. Cioè tu alla fine ti prendi, la cosa, l'obiettivo è quello di sballare. Si fa come la sigaretta di per sé stessa, non è che ci abbia un suo vero e proprio sapore. No, io hanno gli aromi, ma è normale che hanno gli aromi. La marijuana pure, c'è la lemonade. Ma penso che più fumi più te ne rendi conto, sì, forse magari, sì, sì, non penso che la prima persona che beve whisky la prima volta nella sua vita riesca a dire la differenza fra un whisky e un altro. Questo poi penso che venga col tempo, poi il sapere giudicare che gusto ha una certa cosa, che sia erba, quello che tipo, è. L'erba c'è, la lemon ace, che comunque è annaffiata con i limoni, è un incrocio, è al retrogusto di limoni. Io per posso, fare un esempio, posso dirvi che fumavo io i sigari, ho poi smesso per fortuna. Sì, vedevo la differenza fra il retrogusto, più che altro era il retrogusto che ti lasciava in bocca il sigaro. Però per la maggior parte il sigaro di per sé stesso è proprio il fatto, la gestualità, il fatto di tenere questa cosa in bocca, di morderla, di sentire il sapore dello stesso tabacco che nel momento in cui lo morticchi. Il proprio il fatto che il fumo stia lì in bocca e ti in qualche modo ti, cioè tutta una serie di cose che potremmo in qualche modo paragonare in linea generale con il bere un buon whisky oppure un buon vino, però è naturalmente sono un ex fumatore, quindi dopo aver provato la mia esperienza non l'ho considerata positiva. Dico sì, c'è qualcosa nel fumare il sigaro, però niente a che vedere, niente paragonabile fra la differenza fra un vino rosso siciliano e uno champagne francese. Ho provato entrambi. Dico, sono già esperienze così diverse, così di gusto, che non lo so fino a che punto si possa paragonare con una cannabis. Lì l'effetto è evidentemente quello soggettivo che ti dà lo sballo di fatto della canna. Che poi se dipende, la bello della canna è che è molto soggettiva, cioè se tu stai bene, molto sei felice, ma la stessa cosa vale, momento, la stessa allora cosa vale per l'alcol, la stessa cosa comunque vale per l'alcol. Del fatto di essere soggettivo, nel senso dà un effetto diverso da persona a persona. Esempio della marijuana, c'è quando dà un effetto più rilassante, c'è a chi dà un effetto più eccitante, che magari ride di più, poi magari dipende da persona a persona, ma comunque io ho fatto quell'articolo, io l'ho fatto perché c'è gente che è bloccata su una sedia a rotelle e non può curarsi. Perché c'è ancora questa cazzo ci sta di legge che dice che no, legge, è anche una forma mentis della gente che dice che la marijuana è una droga. Ma non è così, ma io potrei dire la stessa cosa delle sigarette e dell'alcol. Ma il fatto che ci sia una legge stupida su questo io sono anche d'accordo, perché nel momento in cui la marijuana ha un vero e proprio effetto terapeutico, ed è dimostrato, e questo effetto terapeutico lo si utilizzi per l'effetto terapeutico e non come avviene da qualche parte, che è con la scusa del Manfredi, tu ci confermi? Con la scusa dell'effetto terapeutico, poi si usa soltanto per l'uso ludico, per come si dice, nel senso per lo sballo. E, dico, l'oppio viene utilizzato per scopi terapeutici. L'oppio è ancora più potente della marijuana. Ma sì, ma intanto quando è che lo usi? Lo usi nel momento in cui c'è una persona che ha bisogno di fare... di perdere conoscenza perché deve essere squartato, e allora fai l'anestesia, lo fai con la base degli oppiacei. E quindi ci sta. Oppure se una persona ha un cancro... Ma stiamo parlando di effetti completamente diversi. Perché no, io cosa sto dicendo? Che dalla marijuana si può ricavare, si può estrapolare quella cellula, quella forma che è il THC in questo caso, quella molecola, che è il THC, o come diceva Manfredi, il... Ci sono, cioè, ho trovato su Wikipedia, c'è cioè THC e cannabinoidi. Cannabinoidi. Sì, che praticamente tu andandoli a prendere queste molecole, poi forma, come si dice, puoi creare questo farmaco che può aiutare delle persone, ragazzi. Quando si sta parlando che ci sono bambini fermi nelle CRTL che non è che la mamma gli fa la canna, gli dice fumati la canna, gli dice tieni, mangiati una bella torta alla marijuana. E quindi stiamo dicendo che quello che manca è una buona legge. No, è la forma mentis della gente, è spiegare per la marijuana che cosa serve. Questo è quello che io voglio far capire. La marijuana non è solamente una droga. Okay. Questo voglio fare capire. Com'è l'uva? Ora voglio parlare dell'uva. Stavo parlando Mischino Manfredi. Ah, scusami, vai. Era una correzione più che altro. Sia THC che CBD sono entrambi cannabinoidi. Tetraidrocannabidiolo, cannabinolo e cannabidiolo. Sono entrambi cannabinoidi. Chi è che canna? Dico, comunque, si sta parlando di una materia prima completamente naturale che esiste in natura. Dico, è come stavo parlando dell'uva. Dall'uva che cosa si fa? Vino, no? Ok. Perché allora tutti non vanno ad accusare l'uva? L'uva! Non si deve mangiare l'uva! Beh, in America l'hanno fatto. Ma l'uva fa schifo! In America l'hanno fatto. È sbagliato, ragazzi. Negli anni 20, negli anni 30. Però quello che... Ora, qui vedi, aspetta... Posso... Fai. Scusami. Negli anni 30, tu stai dicendo il proibizionismo dell'alcol in America. Che cosa è successo, Manfredi? Penso che tu lo sai. È stato il boom dell'alcol. Tutti facevano alcol. No. Stessa cosa. Sì. E tutto è andato nelle mani dei mafiosi e della malavita. E ti spiego il motivo. Perché se tu rendi una cosa illegale, in quel caso la gente è come se tu pigli un bambino e gli dici questa cosa tu non la devi toccare. Quel bambino gli viene ancora di più la voglia, arrivato a 18 anni, quando sarà in grado di intendere il volere da solo, lui andrà a toccare quella cosa perché vuole provare. Quindi, sto facendo un esempio. Io vorrei anche, io sono a favore anche della legalizzazione delle droghe leggere, ma si sta parlando della marijuana in questo caso, perché prima cosa si leva dalle mani della malavita e quindi... Questa è la prima. Secondo, che io vorrei entrare nella testa della gente, vorrei capire perché la vedono come una cosa brutta. È questo che io... Che cosa? L'utilizzo di marijuana o l'utilizzo ludico o l'utilizzo... Entrambi, sia ludico che farmaceutico. Allora, te lo spiego subito da... come dire... da contrario all'utilizzo delle droghe. Intanto, non perché una cosa la utilizzano i mafiosi nel momento in cui diventa illegale, perché allora questo vuol dire che può essere permesso. Per esempio, se è illegale buttare l'immondizia sottoterra, perché questo va a inquinare e quindi... questo viene utilizzato soltanto alla malavita, questo non vuol dire che noi dobbiamo mettere la legge che tutti possono andare a buttare l'immondizia sottoterra che poi inquina le falde acquifere. Okay. Questa è la cosa più assurda di questo mondo. E quindi elimino subito l'argomento che viene utilizzato anche in Italia dai radicali per quanto riguarda la legalizzazione to cure. Ora, il problema è se queste droghe di per sé sono buone o non sono buone. Io ricordo di aver letto, a me piace un sacco la fantascienza, ricordo di aver letto un romanzo dove c'era una società dove venivano legalizzate le droghe. Anzi, non solo, venivano impiantate delle ghiandole che automaticamente secernevano le droghe che permettevano un potenziamento di determinate facoltà, quindi la facoltà uditiva oppure qualcosa che ti permetteva di concentrarti di più, che ti svegliava e quant'altro. E tutto questo, se utilizzato in una maniera opportuna, potrebbe anche essere positiva. Una droga di per sé stesso non è altro che una sostanza che stimola o non stimola il cervello, ed è il modo in cui il nostro stesso cervello funziona. Lo percepisce, ma in questo caso il nostro cervello funziona utilizzando delle sostanze che vanno a modificare la tua stessa percezione. E quindi ti aumentano la concentrazione, ti aumentano oppure ti rilassano. Vedi, l'atto sessuale di fatto non è che ti produce la serotonina. La serotonina potrebbe essere utilizzata benissimo come una droga. È una droga. Sì. Tanto che il sesso può provocare anche una sorta di dipendenza psicologica. Ma qualsiasi cosa può provocare una dipendenza. Io quello che voglio dire è: legalizziamo questa marijuana, però, cazzo della miseria, come l'alcol, dire fatene uso, ma non fatene abuso. Questo è il punto. Comunque vorrei fare un saluto a Ale Catalano. Ale Catalano, ciao Ale Catalano. Ciao Ale. Ciao Ale. E allora, Siamo d'accordo, l'uso, l'abuso può essere un problema, ma già il fatto stesso, mettila filosoficamente, una persona che utilizza una, un qualcosa solo e soltanto per sballare il cervello e non avere più il controllo di se stesso. Cioè, la cannabis di fatto poi alla fine ti porta a questo. L'alcol è la stessa cosa. Esatto. C'è chi, si, chi perde il lavoro. Ma l'alcol soltanto se ne fai un abuso. Ti ma la, con cioè, nel senso, prima aspetta, ti devi bere due litri di birra. Perdonami, ma con l'alcol si muore, con la marijuana no. Se uno fa abuso di marijuana non muore. Ma soltanto perché per avere la dose letale pure con la marijuana si muore. Assolutamente no. Sì. Assolutamente no. Manfredi, scusami, l'ho letto poco fa su Wikipedia. Puoi intervenire, Manfredi? Lo fa su Wikipedia, mi vuoi ascoltare? No, io sapevo che non era mai stato registrato un morto. Per un fatto semplice, perché ci vogliono 40.000 volte la dose che serve, la dose attiva. Cioè, è vero, la dose attiva è quella che ti fa sballare. Quindi la dose per farti arrivare alla dose letale deve essere 40.000 volte più grande. Devi fumarti una marijuana con un THC alto almeno al 6 miliardi per cento. È impossibile. È impossibile. Quindi è impossibile arrivare a morire con la marijuana. Ma con l'alcol purtroppo si muore. Perché se già ti bevi 20 bicchieri di super alcolico. Esatto, ma già è l'uso purissimo. Che è sbagliato. È la stessa cosa che c'è per la marijuana. Però in questo caso la marijuana non ti porta, anche se ne fai abuso, cosa sbagliata, io lo dico, cosa sbagliatissima. Però anche se ne fai abuso, non muori, questo è il punto, non rischi. A meno che la non vita. Sei in macchina. Assolutamente no. Come no? Assolutamente no, perché dà un effetto completamente diverso dall'alcol. Vabbè, è comunque un effetto ovviamente psico. Quindi non dovresti guidare. Non dovresti guidare, giustamente, avete ragionissimo, avete ragione. È fortemente psicattivo. Ovviamente, avete ragionissimo, è vero questa cosa, che non si dovrebbe guidare, è giusto. Però... Vabbè, ma penso come non dovresti guidare se sei sotto qualsiasi medicinale. Fermi, ho sbagliato il cognome di Alessandro Cataldo, scusa, ho chiamato Catalano. Ciao Ale, scusami. Aspetta, ragazzi, facciamo una cosa. Aspetta, mandiamo una canzone. È un bel pezzo che parliamo. Io vorrei mandare quella di... A noi piace cazzeggiare, però... Sì, però ci vuole un po' di musica. Io vorrei mandare la canzone di... Lo dice Manfredi, che è un americanazzo. Cazzo. Wow! The Bruising One String. Beh, mettiamo Chicken the Corn o War? No, Chicken the Corn. Aspetta, prima vorrei dire che praticamente questo è un chitarrista, è un cantatore giamaicano, conosciuto perché suona la chitarra con una singola corda. Ovvero fa il basso, praticamente. Sì, ma ha una voce fantastica, ragazzi, ascoltatelo. Yeah man, this is Bruising One String, the only one string guitarist, right, in and around the world, seen? I am what I am the day I am that I am, exclusive. Tcha! Watch this. Hey, you know my name is Brushy One String, you know. I've been to San Francisco, that's where I see my friend Pancho. He say, hey, One String, there's something you got to know, you know. I say, yeah. While we back on San Francisco, this is where we go. We sing this whole country song like this. Chicken in the corn, on the corn can grow, mama. Hey, when chicken in the corn, on the corn can grow. Hey, when chicken in the corn, so the corn can grow, mama. Hey, when chicken in the corn, so the corn can grow. Hey, young man, we're from San Francisco. Yeah, we have my friend and his name was Pancho. Yeah, he said one swing, there's something you got to know. On Taco Saddles and the Rasses, where we go, we'll sing. Chicken in the corn, on the corn can grow, mama. Hey, hey, when chicken in the corn, so the corn can grow. Hey, hey, when chicken in the corn, on the corn can grow, mama. Hey, hey, when chicken in the corn, so the corn can grow. Hey, don't need to bread, don't need to bowl. I can rap before I feel it when I pull to bowl. But the music nice, so play them twice. For the bros are screaming out like bass. My name is Rushy, I'm a king of swing. That's a rap your music, can't let you sing. No, it doesn't really matter what people wanna say. I rap my music, not on. Rock my music night and day. When chicken in the corn, so the corn can grow, mama. Yeah, when chicken in the corn, so the corn can grow. Now, chicken in the corn, so the corn can grow, mama. Yeah, when chicken in the corn, so the corn can grow. Yeah, ready, pretty, pretty, do that, don't put on platter. Ma è finito. Ragazzi, non è finita. But the music nice, so we'll play them twice. All the balls are screaming out like mice. My name is Bushy, the king of swing. There's a rapping music and the little sing. Now it doesn't really matter what people wanna say. I rap my music. Not in the un secondo ed eccoci in linea. Ed eccoci rientrati. Io sto guardando via Skype. Ricordiamo che siamo collegati via Skype con il nostro Manfredi. E lo sto guardando in mutandoni, seduto sul suo lettone. È tuta. Ah, è un pigiamino, ok. comunque, chiudendo il discorso della cannabis terapeutica, chiudendo questo discorso, ci sono molte. C'è molta gente che comunque è contro, è a favore, è un po' un macello. Non so, c'è chi la vede come Riccardo, c'è chi la vede come me, c'è chi la vede come Manfredi. Manfredi! Come la vedi? Io come la vedo in definitiva? Sì. Cioè, per me la gente può fare quello che vuole, mi interessa. Bravo. Vabbè, tu sei un po' anarchico sotto questo punto di vista. No, anarchico no, addirittura anarchico non direi, però... Cioè, alla fine la gente è libera per me anche di comprarsela in maniera illegale, se o no, o in maniera terapeutica. Per me può fare quello che vuole. Però io vorrei dire che comunque la marijuana rallenta la crescita dei tumori, cura l'emicrania, dico, ragazzi... Dicono, compa, ci sono, come diceva Riccardo, sono articoli che stanno a favore, dipende come il governo. Ma anche se gli conviene o meno al governo, io vorrei tanto capire perché lì e perché nei Paesi Bassi ad Amsterdam è legale. Perché ci guadagnano alla grande e ci guadagna anche lo Stato. Ok, ma lì comunque bisogna dire che il turismo non è solamente basato su quello. Non è questione di turismo, è questione che se lui la vende, ma com'è ci prende le tasse. Ma com'è che ad Amsterdam non ci sono morti, gente che si scanna, non c'è l'anarchia e tutto funziona in maniera perfetta? Essendoci gente che va a lavorare, prima di andare a lavorare si fuma un bel cannone di erba e poi se ne va al lavoro. Ma il problema grosso non è l'erba, ragazzi, cioè, no? L'erba, è l'abuso. L'erba è un argomento, cioè non è che nella vita esistono soltanto le droghe leggere. Se noi dovessimo affrontare come società dei problemi, io prima di affrontare il problema delle droghe leggere, io affronterei il problema della corruzione, perché se... Bravo. Io devo andare a lottare, sì, contro la mafia, hai ragione. Sì, è vero che la mafia prende un sacco di soldi dalle droghe, la gente muore, eccetera, ma se io prima non vado a sistemare la questione della corruzione, non potrò mai fare nulla, qualsiasi cosa, qualsiasi azione io pretenda di avere, cioè... Non potrà mai andare avanti, perché se ci sono i politici e i giudici e i poliziotti corrotti, come cavolo li vado a prendere a questi che spacciano, che fanno e che dicono? È impossibile. Tagliargli l'acqua significa combattere la corruzione. Ma tagliargli l'acqua lo puoi fare anche legalizzando la marijuana, in questo caso. Loro si attaccheranno alla cocaina, Manfredi poco fa diceva ognuno può fare quello che vuole. Sì. Ok, questo è il nuovo modo di pensare di oggi, ovvero del relativismo, ognuno può fare quello che vuole. Ma non è, dal punto di vista di uno Stato, non puoi considerarla sempre soltanto così, perché lo dicevo dal punto di vista personale. No? Esatto, sì, l'ho capito, ma io poi lo devo anche andare a mettere dal punto di vista politico, dal punto di vista sociale. Ovviamente. Cioè non è possibile che ognuno fa quello che gli pare e piace, perché se io mi ritrovo con un problema sociale che è causato dall'alcol, per esempio, che nelle discoteche questi si inchiumano alla grande e poi escono e vanno a ammazzare i padri di famiglia, e io il problema dell'alcol, se non dal punto di vista del proibizionismo, in qualche modo, da qualche punto, ci devo girare attorno, lo devo risolvere, perché devo risolvere il fatto che io non sono libero di uscire alle 4 di mattina perché devo andare a lavorare, non lo so, io abito a Catania, devo arrivare a Trapani perché lavoro lì, non posso uscire la domenica mattina per arrivare la lunedì mattina perché ci sono, ma sto dicendo una minchiata, no? Che devo arrivare all'altro lato della città perché mi scanto che incoccio in autostrada qualcuno che ritorna dalla discoteca completamente fatto di droga o di alcol. Quindi io i problemi li devo comunque risolvere. Da qualche a quel punto li devo aggredire. Io a posto tuo a quel punto preferirei che è fatto di marijuana che non di alcol. Ma in ogni caso se tu sei no, per parlare, per dire, se tu sei fuso, se sei fuso di alcol, se sei fuso di marijuana o se sei fuso di crack o di cocaina, a me non cambia nulla. L'unica cosa che l'unico effetto che io voglio contrastare è che questo si fa andare a impiccare contro una macchina dove c'è un padre di famiglia. Vabbè, infatti senza considerare che muoiono pure loro. Ma su questa hai ragione, ma io odio la gente che fa abuso di alcol e per andarsi a divertire un sabato deve per forza sballarsi e drogarsi ed ubriacarsi come una merda. Perfetto. Io questa cosa la odio. Io dico, c'è gente che dice "Oh, io non ho soldi per uscire, per ubriacarmi, quindi questo sabato non esco". Ma che minchia è? Che cazzo dici? Scusa, non puoi stare tra amici, fare una bella esatto. discussione. Ma stiamo scherzando. Non ti puoi fare una radio su Pianerottolo la caffè. Ecco. Dico, sotto questo punto di vista, io dico, quelle sono delle teste merite di cazzo. Teste di cazzo. Ce ne sono tante, guarda. Ma ce ne sono tante, lo so. Quindi, su questo argomento, io chiuderei. Chiuderei con... Direi che comunque ognuno può fare quello che vuole, sempre entro i limiti. Entro i limiti, bravissimo. Allora, io lo penso come lui. Nel rispetto dei... sono i limiti. No, ma allora, chiunque può fare quello che vuole nel rispetto dell'altro. Quindi, se io rispetto... Si chiude in camera e si fuma il cannone, non ci rompe le scatole. Ok, lì a chi disturba, ma anche se si mette in una villetta, seduto in una panchina e si fa una canna, o si beve una birra, o fa quello che vuole, ma senza dare disturbo e regare disturbo a una persona, senza nuocere a una persona, io dico lì, il problema dove sta? Non c'è. No, se non ci sono, se è vero... In due stati, nel Colorado e nello stato di Washington, l'hanno legalizzata per uso ludico. Che è ricreativo, addirittura. Ovvero si fanno il cannone direttamente. Sì. Okay. Ma anche nella, vorrei dire questa cosa, nella NFL, National Football League, hanno legalizzato l'uso di marijuana per quanto riguarda marijuana terapeutica, per quanto riguarda il rilassamento dei giocatori, per far rilassare di più i giocatori prima di una partita. Quindi se glielo ritro, se lo trovano nel loro sangue non c'è nessun tipo di problema. Nulla. Comunque, chiudiamo questo discorso così e mandiamo... Io vorrei mandare una canzone di Rino Gaetano. È una canzone molto spiritosa, a me mi mette molto allegria. Mi mette comunque molto vedi allegria. Che è Berta filava, non è Berta fumava. È Berta fumava e fumava con Gino. E fumava con Rino. Vai con Berta filava di Rino Gaetano. Vai. Era entro e bruciava con Ragazzi, rieccoci lì. Allora, qui fanno richieste musicali. Ale Catalano, no, Cataldo, là, come avevo detto, ha chiesto una canzone. Vorrei fare un saluto al grande Pietro Fontana. Pietro, sei grandissimo. Pietro, sei grandissimo. Un mio amico ha fatto l'animatore con me, un mio vecchio collega, grandissimo. Vorrebbe messo Tinturia, Occhio a Pampinella. Vediamo se il nostro DJ Riccardo Retto Parreno. Vediamo se riesce. Ci vuole un po' di tempo, ma ci riusciamo, dai. Vediamo se riesce a mettere Occhio a Pampinella. Ale, dimmi tu che richiesta hai. Scrivimi che richiesta hai. Scrivila direttamente sul Pianerottolo Lo Caffè. Posta la canzone e vediamo se riusciamo a soddisfare, i vostri desideri più. Ma io una richiesta la posso fare pure. Ma che minchia vuoi tu? Ma ti vuoi stare zitto? Ti stai là in America. Vuol dire questo qua, 18 anni è in America. Vive da solo. Va all'università. E sta a casa tutto il giorno. E ci chiede a noi, la canzone. Io non lo so. Non lo so, ma almeno ne hai femmine. Almeno. Almeno fai bunga bunga. Stiamo lavorando, compagno. A scanna sta facendo. È che lì le ragazze sono troppo caldate, quindi non se ne capiscono. Non capiscono niente. Allora, dai, cambiamo argomento. Sì, Sara, sono io. Ti saluto, Sara. Un bacio. Sono io, sono Pietro. Non ci sentiamo da un sacco di tempo, ma sì, è finito di flirtare. Sarà cambiata la mia voce, ma sono io. Ho finito di flirtare. Di flirtare. Senta chi fa quello, io non l'ho capito. Allora, io avrei pure una richiesta per il nostro parrino. Posso fumarmi una sigaretta? No. Mia madre ti butta fuori. Ok. Allora, mandiamo Tinturia. No, aspetta, ancora ci vuole tempo, si deve scaricare, si deve aggiungere. Ok, però allora, prima parliamo. Vi dico di che cosa volevamo parlare. Praticamente, ragazzi, sta scoppiando la terza guerra mondiale e non ne sappiamo un emerito. E noi parliamo di carne, praticamente. No, ma spieghiamo perché non ne sappiamo niente, perché praticamente c'è una malinformazione assurda. No, cioè, non c'è, l'informazione c'è. Ma se dove? Tu che non ti guardi i telegiornali. Assolutamente no. Fino a poco fa ne parlavo. Ma assolutamente. Manfredi, tu ne sai niente di questo? Ma come in America, ne sa. È la gente che viene a scoprire che l'Ucraina esiste ora. Sì, c'è gente che non sa neanche cos'è l'Ucraina. Dice, ma che cos'è un piatto tipico olandese? L'Ucraina, non l'Ucraina. L'Ucraina. comunque, praticamente, ora attacca il nostro Riccardo, che è il nostro professorino, che vorrebbe spiegarci... Professore, ci spieghi. No, abbiamo parlato già l'altra volta. Sì, lo so, ma infatti, adesso le cose stanno si quindi stanno l'informazione gravando. L'abbiamo fatta pure noi. Quindi. Ho visto che invece il presidente che è scappato, Timoshenko. No, Timoshenko e la bella biondina. L'auto, chi doveva scappare in Russia. Uh-huh. In Russia non c'è potuto andare, da quanto ho visto. Ma secondo me già sarà lì, però non è. Avete visto la cosa di Vladimir Putin in Russia? Sì, sì. Che cosa? Non ne so niente, ragazzi. Alle Olimpiadi con Pio Amedeo, i due... Sì. Bellissimi, sono bellissimi. Allora, comunque, Pietro, stiamo cercando di metterti la canzone. Ale, se tu mi fai la richiesta, forse te la mettiamo. Purtroppo abbiamo un DJ che è un pochino lento. No, dovete capire che è un vecchio. Devo stare nel frattempo con Cina, con il Corriere della Sera, con la gestione di tutto il programma per mandare in onda le varie cose. Devo stare attento a tutte queste cose. Poi devo andare a cercare come scaricare. Devo andare a cercare il file, devo andarlo a scaricare, lo devo andare a mettere nel database ed è un gran casino. Allora, ascoltami, qui mi dicono che c'è un gruppo di amici di un amico che hanno una gran richiesta, quindi questa la devi per forza. Per forza. Praticamente vorrebbero sentire, se non sbaglio la pronuncia, Uria Hep. Uria Hep. Ma fai una cosa, perché non la scarichi te invece di rompere le scatole a me? Così. Ma scusa, se la carichi da YouTube, mi dicono... La devo caricare, da YouTube, questo è il fatto. Però un secondo solo che ora accontentiamo tutti. Intanto vi lasciamo con Manfredi, che ci vuole esporre un suo problema. Un suo pensiero. Vai Manfredi, è il tuo... Manfredi è... Aspetta, un secondo che presento. Manfredi è il suo ottimo di pensiero. Compa, che pensiero vuoi? spunti con queste cose a sorpresa. Ma Manfredi, lo conosci il gioco della nomination? No, compa, cos'è? Ma neanche io. Come lo stanno dicendo? Stavo parlando di Ucraina. No, vero? Va bene. Capiere, sei un casinaro che non hai idea. Dai, stavo dicendo questa cosa. Dai. Nel frattempo che io cerco, in teoria che non mi si scarica. No, devi cercare Urian Hip. Intanto occhi a Pampi, non alla volta, vero. Ragazzi, qua abbiamo una tecnologia molto molto vecchia. Quindi dovete venirci incontro. Già siamo in... non so da quanto. Comunque l'hai mandata? No. Non l'ha mandato un Devo riuscire a scaricarla prima. Occhi a Pampina 3 MP3 la sta scaricando in questo momento, quindi non rompere le scatole. Ok. Dov'è? Aspetta. Manfredi ride. No, Manfredi ridacchia. Cosa ridacchi? Occhi a Pampina, poi mi dici qual è l'altra canzone. Io non posso fare il DJ e lo speaker insieme, è impossibile. Urian. No, ti dico come si scrive. U-R-I-A. H. Pietro, le posso postare le immagini di ieri che ti ho fatto? Uria Hip? Sì. Come si chiama? Uria Hip. Qual è la canzone? Uria Hip è il tipo. Ditemi chi la canta, per favore. No, Uria Hip è il cantante del gruppo, non lo so. Qual è la canzone? Qual è la canzone, ragazzi? Vabbè, va. Pietro, la posso postare su Piero? No. No, assolutamente no. Assolutamente no. Manfredi, vengo lì in America. A ottobre devo andare in America, ragazzi. Il grande Pietro va in America. Oh yeah. E dopo che ha conquistato l'Inghilterra, conquisterà l'America. Dopo che si è fatto buttare fuori dall'Inghilterra, si farà buttare fuori. Allora, pronunciatore a vostra scelta, dicono. Scegliene uno a caso. Look at yourself, se proprio insistete. Dicono, il nostro Ale. Allora. Mischina, Pietruccio, a te ci pensiamo pure. Comunque. Ma Look at Yourself mi dava... È arrivata la nostra Noelia. Noelia, ti salutiamo, la nostra cantante, la nostra bravissima cantante. Abbiamo mandato in onda il tuo pezzo. Abbiamo mandato in onda il tuo pezzo, sei veramente brava. La registrazione sì, poi comunque ci potrete sempre ascoltare perché registriamo tutto noi e poi lo rimandiamo sul gruppo. Che bello. La nostra Beatrice oggi ci ha abbandonato, ha scritto, ma non ti preoccupare, manderemo la registrazione come stavo dicendo, quindi potete comunque riascoltarci perché ritrovate la registrazione sul gruppo. Bravo Pietro, continua a parlare. Io sto cercando di arrancare perché c'è Riccardo che sta cercando di caricare tutte le canzoni, sta cercando di caricare. E comunque, con Manfredi, spiega un attimo la tua situazione. Qua ci sono trentenni che sono a casa. Ma non stiamo parlando di... Io aspetta, dico... Vabbè. Fai il tuo lavoro. Vabbè. Ci sono trentenni che sono ancora a casa, che non fanno un cazzo, in mezzo alle cosce di mamma. E tu invece hai una grande opportunità, come mi dicevi. No, vabbè. Parlaci un po' della tua situazione. Allora, in pratica io mi sono diplomato a giugno scorso, ero 19 anni e mi sono trasferito qua, c'è pure mio fratello. Niente, faccio l'università qua, sono 4 anni in totale. Niente, ho iniziato il mio primo semestre a gennaio e da tutti che sono, diciamo, regolarmente iscritto e vado a lezione. L'università è un po' diversa rispetto a quella italiana, tipo... Qua non ci sono per esempio gli esami orali, almeno in quasi nessuna materia, tranne, vabbè, che ne so, sto prendendo la classe di speech, ovvero di speaking, là devo fare chiaramente una presentazione orale, no? Però per la maggior parte sono tutti test scritti. Pietro, sei disconnesso? No, io sto seguendo 5-6 persone contemporaneamente, quindi... Dai, che sei... Ok, stavi dicendo, dai, continua. Niente, sono iscritto qua, per i prossimi 2 anni frequenterò un college qua a San Francisco che si chiama City College. Sì. E poi devo trasferirmi perché funziona così, non... è un discorso abbastanza lungo, devo trasferirmi di università fondamentalmente. Per quale motivo? Il motivo, in pratica, il college in cui vado ora non rilascia lauree da 4 anni, ma rilascia solamente certificati da 2 anni, però... Le materie che faccio possono essere convalidate per poi trasferirmi in un'altra università. Diciamo, detto... Diciamo, è una università, una mezza calzetta, praticamente. No, metti di pagare di meno per questo. Perché gli studenti internazionali, quindi gli studenti che non sono cittadini americani, pagano un sacco di tasse in più, tipo di solamente international fee, le chiamano, ovvero la tassa internazionale, va? si parla che pago, che ne so, più dell'80%, cioè l'80% di quello che pago io è solamente di queste international fee. Ma io pago almeno 3-4 volte quanto paga una persona, un cittadino americano che si iscrive nello stesso college. Che giustamente quindi paga le tasse. Andando in questo City College mi permette di risparmiare un po' di soldi per i primi 2 anni. Per poi quindi non paghi affitto, non paghi... No, non c'entra. No, io sto parlando solamente della retta scolastica. Ah, ho capito. Non parlo di affitto. Quindi comunque risparmi un po' di soldi, no? Sì, per questi primi 2 anni. Ah, quindi ti puoi comprare più marijuana. Vabbè. Ragazzi, dovete vedere la faccia di Manfredi. Se era qua mi capodava un cazzotto chi di suo. Dai, sto scherzando. Dai, sto scherzando. Che mi segue e pensa male, che ne so. Ma che deve pensare male, un bravo ragazzo, dai. Ti vedo, no? Dai, no, sì. Loro non ti vedono, noi sì, però. Ieri sera siamo stati fino alle, almeno io fino alle 6 a parlare con lui, ricordavamo i tempi quando eravamo piccolini, anche se adesso non è che siamo così grandi. Quando avevamo 12 anni siamo conosciuti il Manfredi. Dai, cosa mandiamo? Andiamo allora, dove dobbiamo mandare adesso per Ale e per il suo gruppo? No, Urian Hep. E Occhio a Pampina, no? Sì, sì, fai tu. Allora mandiamo Tinturia, Occhio a Pampinedda. Occhio a Pampinedda e poi Look at Yourself. Pietro, solo per te, Occhio a Pampinedda. Urian Hip, ho sbagliato la pronuncia. Con l'occhio a bambinetta, con l'occhio a bambinetta, con l'occhio a bellissimo, ma noi... sta parlando, vabbè, lasciamo stare, mettiamoci in pausa, studentoria, mi esca, dai, Bana, che pausa, non mettere niente. Allora, eccoci. Eccoci arrivati. Riccardo, c'è un piccolo problema con un'ascoltatrice, la nostra cantante. Dimmi. Praticamente dice che non riesce a ascoltarci. E deve entrare semplicemente nel nostro sito. E forse il problema che può avere è di non aver aggiornato il flash. E se lei clicca sulla nostra radio, nella cosina a forma di radio che è sulla destra del nostro sito, può entrare direttamente nel coso di Caster, che è qui che ci dà la possibilità di farci ascoltare in tutto il mondo via internet. Se non ci riesce, si deve semplicemente installare il flash. Ok, dai. Allora, ora voglio mandare Urian Hip. Mm-hmm. Per la gioia di Ale Catalano e tutti i suoi amici, un saluto a tutti. Urian Hip. Mamma mia, che canzone casinara! Ma che canzone un po' wow wow! Allora. Allora, ragazzi, stiamo parlando poco fa di questa crisi internazionale che abbiamo in Ucraina, ed è veramente grave. Oggi, se andate a vedere il Corriere della Sera, che titola così: crisi russo-ucraina, chiama i riservisti, e il premier dice: siamo sull'orlo del disastro, perché questi qua dicono la Russia ci ha dichiarato guerra. E siamo sull'orlo del disastro. Nel frattempo gli Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna annunciano che non prenderanno parte al G8, e questo è già una cosa non tanto carina. No, e poi dice, c'è il segretario di Stato John Kerry, americano, qua il nostro amico in America ce lo può confermare, dice è pronto, ogni singolo alleato americano è andato pronto ad andare fino in fondo allo scopo di isolare la Russia in seguito a questa invasione. In conseguenza di ciò, Mosca potrebbe essere, secondo Kerry, espulsa direttamente dal G8. Quindi le minacce sono veramente gravi, sia da parte della Russia, che direttamente già ha invaso con più di... Cosa? Come? Gli Stati Uniti, mi sentite, ragazzi? Forse l'ho disconnesso. Pronto? Ti sentiamo male. Prova, Manfredino. Comunque, aspetta, Manfri, ora ti do io la parola, tranquillo. Sì, vi dicevo, il problema può essere veramente grosso. Ah, il problema del mio computer. No, vabbè, il problema dico dell'Ucraina, non del tuo computer. Magari fossero tutti i problemi del tuo computer, ma guarda, non ci starebbe a fregare niente. Lo scontro è praticamente sulla Crimea, questo pezzo di terra... che è abbastanza grande, è popolato per la maggior parte da russi. In realtà è stata donata nel secolo scorso, nella metà del secolo scorso, da Khrushchev, se non sbaglio, all'Ucraina. Lì siamo nel momento in cui l'ex URSS, l'Unione Sovietica, viene meno, viene a cadere, e quindi si vengono a creare questi nuovi stati come la Georgia, che già Putin ha provato negli anni passati a invadere per cercare di riannetterla allo Stato russo, e adesso con Kiev e con l'Ucraina. E questo Stato, questa Crimea, che era praticamente una parte della Russia, viene donata all'Ucraina con lo scopo di tenerla più vicina possibile. Quindi io ti sto dando una parte del mio territorio, tu devi rimanere nel mio... come dire, nella mia orbita, e questo ha causato grossi problemi di Manfredi. No, guarda, vai. Vai, di. Poco fa volevi dire qualcosa? No, niente. A proposito, invece ti ho detto la Georgia, ho conosciuto un ragazzo georgiano qua. Mm-hmm. E cosa dice? Cosa dice di questo argomento? No, non abbiamo parlato, ora anzi la prossima volta che incontro... Contattalo, vediamo cosa ne dice, cosa ne dice uno che ha subito in qualche modo le pressioni della Russia. E lui ritorna quest'anno. Perfetto. E quindi lo scontro si basa soprattutto su questo pezzo di terra. Da un certo punto di vista potrebbe essere anche comprensibile il fatto di una riannessione della Crimea in Russia, però le modalità, che sono quelle di una vera e propria invasione di un territorio con una sua sovranità popolare, che fa parte di uno Stato, questa aggressione è contro tutte le convenzioni dell'ONU, e quindi può creare un'instabilità politica, cioè praticamente ognuno adesso potrebbe di fatto ritornare come all'epoca della prima e della seconda guerra mondiale e invadere territori che non sono propri, al discapito di qualsiasi legittimità, al discapito di qualsiasi possibilità reale di un'operazione del genere. Posso dire la mia? Dico un punto. No, non puoi. Allora, secondo me alcuni paesi, alcuni popoli... Ora, per favore, io ogni volta quando parlo attacco il dibattito. Non sto dicendo chissà che cosa, ma sto dicendo qualcosa di reale. Secondo me, alcuni popoli purtroppo hanno bisogno di un dittatore. Devono essere seguiti, devono essere comandati a bacchetta. Insomma, hanno bisogno dei genitori che gli dicono cosa bravissimo, perfetto, bravissimo. Devono eliminare la cannabis. No, calmiamoci. Ma alcuni popoli hanno bisogno di un dittatore. Ora parliamo dei popoli, quelli che sono sotto la nostra bella Sicilia. Quelli che abbiamo tutti di fronte. Ma io parlerei della nostra Sicilia. Vabbè, questo è vero, dicono guardiamoci in casa prima e poi guardiamo gli altri. Però dico, se non sono controllati, se non c'è qualcuno col pugno chiuso, vedi cosa sta succedendo. Sta succedendo un bordello. Sta succedendo che ci sono più persone che vogliono il potere. Bravo, perché... è più persone che vogliono il potere. Ma questo... è questo che crea guerra. È la dittatura che crea, che crea questo tipo di instabilità politica. Invece è la... è la democrazia che ti permette di avere uno sfogo a tutte quelle che sono le pretese delle varie parti, delle varie fazioni all'interno di un popolo, di un paese. Se tu sei, che ne so, uno di ultrasinistra, bene, ti fai il tuo bravo partito, ti fai il tuo bravo partito e decidi che cosa fare, cerchi di fare... di fare crescere il tuo popolo nei tuoi ideali, trasmetti le tue idee e poi ti confronti il punto di vista politico con le elezioni. Se ti va bene, tutti gli altri sono d'accordo con te, allora la cosa ma va. Ma quando hai un popolo che sono dei caproni, come fai? E quindi tu stai imponendo ad altri il tuo pensiero. A questo punto i caproni potrebbero dire sei tu uno stronzo invece questo che noi caproni. Cioè, chi è che definisce che cosa è giusto e cosa è sbagliato? Sì, sarebbe bello che potesse una persona, una guida illuminata, dire che cosa è giusto e cosa è sbagliato, ma ti rendi conto di quanto questo abbia causato distruzione e dolore nel passato? E questo lo dico anche da persona molto religiosa. Nel momento in cui c'era un papa che decideva che cosa era giusto e cosa era sbagliato, e non solo lo imponeva, anche dal punto di vista sociale, i danni che hanno fatto non sono normali, perché intanto per diventare papa la gente si scannava fra di loro, perché sì, il problema non era più diventare papa, diventare una guida spirituale, ma significava dover diventare una guida politica, e quindi tutto questo andava a incasinare sia la Chiesa, che perdeva la sua stessa funzione di guida spirituale, sia andava a causare casini, perché determinate concezioni si radicavano al di là del loro stesso significato religioso e andavano ad assumere un significato politico. Sei troppo profondo, non ti sto seguendo. Sto scherzando. Significa, significa che, per esempio, il re Ruggero, leggevo l'altro giorno, re Ruggero d'Altavilla, Ruggero II, è arrivato a un certo punto, la stessa cosa ha fatto Carlo Magno, è arrivato a un certo punto, dice, no, chi è che ce l'ha contro di me? Siccome io sono istituzione divina, è Dio che mi ha messo qua, chi è che ce l'ha con me? Allora va contro i 10 comandamenti e quindi deve essere ammazzato. Così è sbagliato, così è sbagliato. Ma questa è la dittatura, questa è la... Lo so, però alcuni popoli, io stavo dicendo che comunque alcuni popoli hanno bisogno della dittatura. No, guarda cosa è successo in Ucraina. In Ucraina si ritrovavano con un presidente che voleva per forza aderire all'Unione Europea, contro il suo popolo che voleva unirsi all'Unione Europea, voleva per forza andare con i russi, e invece si sono messi là, hanno fatto casino, hanno detto tu sei corrotto, perché era vero, era corrotto dalla Russia, e che cosa ha fatto? L'ha buttato giù. Questa è l'iniziativa popolare, questa è la vera democrazia, ovvero dove è la gente quella che decide che cosa lo Stato deve fare. Certo, forse sarebbe stato meglio, arrivato a un certo punto, che non avessero vinto questa battaglia e non fossero invasi dalla Russia, questo non lo sappiamo, ma se invece che essere invasi dalla Russia alla gente fosse stata data la possibilità di votare, ok, noi siamo Crimea, per la maggior parte siamo russi, che fa? Ce la facciamo ce la facciamo dai, no, ce la facciamo un bel referendum e decidiamo noi se dobbiamo essere Ucraina, se dobbiamo essere Russia, invece di mandare la gente a morire ammazzata. Punto interrogativo. E dice, la mettiamo. No, aspetta, avevo promesso una cosa. C'è una mia amica Sara che mi ha fatto vedere una cosa, una moda che sta dilagando per adesso, che è la necnomination. Penso che l'hai visto. I ragazzi che bevono si fanno il video mentre che bevono. Che si fanno? Si fanno un video mentre che bevono una birra, mentre che bevono bevono qualcosa, un alcolico. Ah, sì, città. Sì, l'ho visto. Questa è una moda. La Necronomia esce il gioco che ha fatto 4 morti. Fino ad ora ha fatto 4 morti già. Ho già postato l'articolo nel gruppo. Mm-hmm. Bere una grande quantità di alcol, di solito birra, fino a ubriacarsi davanti a una telecamera. Mm-hmm. Ed evitare nel video due o più amici o a fare lo stesso. In breve tempo. È l'assurda moda, nata in Australia, è diffusa rapidamente anche in altri paesi, che sta mettendo a rischio la salute e la vita di alcuni giovani. Pietro. Si chiama Neck Nomination, Pietro. Ma anche Neck and Nominate. Ti rendi conto che stavo parlando di una cosa, te ne sei andato da un'altra parte completamente? Sì, ho chiuso perché stava diventando troppo male. Ma mettiamo un po' di musica, invece, oppure mi dici no, sei un coglione, stai dicendo cose stupidaggini. No, ma stava diventando pesante. E mettiamo un po' di musica. Aspetta, fammi finire la cosa. Ma finisce la cosa. Dai, ma fammi finire la Necromination, mica è una cosa seria. Necromination. Vuoi mettere la musica? Stai parlando? Cioè, che musica... Cioè, tu mi... Non va! Se non vai avanti, io ti picchio! Allora, in diretta ti picchio! Allora, zitto, se no ti do un cazzo zitto. I ragazzi strappano più bottiglie di birra... Oh, vabbè, comunque, si vince una bottiglia di... Una cassa di birra. La gente se ne sta andando, questa vincita. Una cassa di birra. Ma non è vero, la Necromination minchia è una cosa seria. Per adesso i ragazzi va di moda, si bevono di botte. Vabbè, si inchiumano fino a che non muoiono. È una minchiata, okay. Io dico, ma per chi sa cosa? Ma per una che la gente è stupida, la gente ha bisogno l'ha di... fatto Manfredi l'altro giorno. L'ho fatto. Non se la ricorda nemmeno. Era amiaco. Comunque, adesso vi mando. No, vi voglio mandare i Flux Pavilion. Con I can't. Flux Pavilion. Minchia, ci rompi i coglioni. Flux Pavilion con Can't Stop. Dai. I can't stop. Dai, manda sta canzone. Ma caga, va. Ciao. Dai, siamo rientrati. Buonasera. Ma buonasera a chi? Che già salutavo. Buonanotte, allora. Ma che cosa? Allora ragazzi, siamo in chiusura. Abbiamo le ultime canzoni da mandare in onda. E vi ricordiamo di andare sul nostro sito e mettere un bel mi piace sopra la radiolina che abbiamo sul nostro sito. Sì, mettere molti mi piace perché ci aiuta. Anche che magari ogni tanto ci passate e mettete un altro mi piace, se ve l'accetta che avete cambiato IP, è fantastico. E poi c'è una bella domanda da fare. Siccome abbiamo fatto questa bella discussione sulla dittatura, noi abbiamo il discorso dell'umanità, abbiamo una registrazione del discorso dell'umanità di Charlie Chaplin nel film Il Grande Dittatore, che è un discorso che in genere infiamma la gente, nel senso, sì. È un bel discorso. Quindi adesso mettiamo una cosa su Charlie Chaplin, su internet, volete ascoltare il discorso dell'umanità del grande dittatore di Charlie Chaplin? Punto interrogativo. Nel frattempo quel cretino di Manfredi ha messo la radio. Fa casino. Comunque, adesso vi mettiamo i Two Cellos, almeno. Thunderstruck. Io vi spiego questi qui. Questi qui, con due violoncelli, fanno una canzone degli AC/DC. Che è un casino. Che è un macello, ma è favolosa. Bellissima, sono bravissimi. Dovete vedere il video, l'ho postato nel mio profilo personale, che comunque potete accedervi. Ora comunque lo posterò anche su Pianerotto Caffè. Con i Two Cellos, Thunderstruck! Oh yeah! Avete 3 minuti e 50 secondi per votare. Votate. Votate, vi prometto che ho pilo per tutti. Per il vostro piacere, lo spogliarello in diretta di Riccardo, detto Parreno. Mi ero dimenticato di andare a messa.

E niente, vi saluto tutti. Un bacio. Ben, ci rivediamo alla prossima puntata. Aspettate, di... vi lasciamo non con la jingle, ma con sempre con il chitarrista a una corda sola. Brushy on the string. Giusto, Manfredi? Come? Come? Brush on stream. Follow. One fashion, one station. Come cavolo si chiama, perché qua ci sono stati casini. Questa è un'altra. War crime, una cosa del genere. War crime, war hack. War hack, una cosa del genere. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi, alla prossima. When I look back into society, I see more and more people believe to themselves that they're better than each other. But no, not for me, you see. You see, I'm better than no man. Then therefore, I see no man better than me. You see, the story goes on and on like this. The story never stops. Yeah, yeah, yeah. Oh, mama. Yeah. Mm-mm. Love on hate. Never a friend is more. War and crime. Never a race. No, no. Love on hate. Yeah. Never a friend is more. War and crime will never rain, but I don't like the way that some people stay. Cause all they wanna do is take your life away. I don't like the way that some people stay. Cause all they wanna do is take your life from you. But I'm singing, love on hate. Never will friends know war and crime. Will never rain, no, no. Love on ATR. Never will friends know war and crime. Will never rain. Some people don't like other people. That's all they want to do. Force and fight to do. Some people love the guns, some people love the knives. Only one to do is to take each other's life. But I'm singing, love on hate, never will find a soul, war and crime, never rain. Watch this. Love on hate cannot never befriend people. War and crime cannot never really reign. I know that the bush ain't gonna give no problem. I come and I do want the children. Of them are running, them are saying damn son. And them really want it just a knife and a gun. Father van a billy and she dropped from a gun. Not a brother, shot a brother in a Kingston. Such a uncool, don't you be a fool. Read your Bible, listen, Father God rules. Remember that Father God has set out the rules. I said, don't be a fool. Love, love, love, love, love, love is loveliness. Then war and crime will never end. No. Love, love, love, love, love, love is peace and happiness. Then war and crime will never end. So I'm singing, love on hate. Never will find us, no. Never friends, no war and crime will never rain. No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no,